A tempo di sport con Carlo Genta. Beh, gran bella domenica se vi piace lo sport. Non possiamo rinunciare a seguire tutto quanto a partire dall'alba con i mondiali di rugby, poi Gran Premio di Aragone, l'ennesimo flop di Valentino Rossi, soltanto decimo. E poi un anticipo dell'ora di pranzo che insomma è stato spezzettato dal diluvio universale. Atalanta alla fine ha battuto il Palermo 1-0 in una gara che si è protratta a lungo, gol di Dennis, poi l'interruzione. Interruzione tra l'altro che curiosamente ha fatto slittare anche, dato di cronaca televisivo, la diretta gol di Sky. Di 7-8 minuti sono visti probabilmente gli spot in cartellone e il calcio è iniziato dopo. Note a margine appunto di una grande domenica di sport, onestamente. Risultati del mattino ai mondiali di rugby: Inghilterra batte Georgia 41-10, Galles Samoa 17-4 e quindi Francia batte Canada 46-19, aspettando l'Italia che sarà in campo martedì. Poi il pomeriggio del pallone, cosa sta dicendo il pomeriggio del pallone? Cosa ha detto l'anticipo di ieri, molto atteso, di San Siro? Ha detto quello che io mi aspettavo, ve l'ho confessato anche ieri, cioè un pareggio che è ossigeno per due, ma con risultanze diverse. Questo è uno dei temi già importanti di discussione del weekend. Uno 0-0, quello di ieri sera, che secondo me ha facce diverse, facce differenti. Quella di Gasperini, che insomma finora ha incassato delle difese d'ufficio da parte della società, quella di Luis Enrique, che evidentemente ha incassato difese ben più convinte da parte del suo club, cosa che si è tradotta in uno spogliatoio che ha accettato le decisioni del tecnico, che ieri sera si è presentato una partita, si è steso sulla griglia, si è steso sulla graticola, mettendo due centrocampisti di qualità come Perrotta e Taddei come terzini, e disegnando con la sua filosofia la Roma. Poi è stato 0-0, entrambi respirano almeno fino a metà settimana, quando ci sarà il turno infrasettimanale appunto di campionato, però secondo me con segni differenti, anche se alla fine l'Inter ha rischiato di vincere. E ho anche diversi vostri commenti, che poi leggerò, che ci sono arrivati sulla pagina Facebook, e questo colgo l'occasione per ricordare che Facebook e Twitter ci faranno compagnia, siamo lì, quindi veniteci a trovare, interagite, scrivete, ma soprattutto telefonate, non con Facebook e Twitter, col telefono 800 24 00 24. Cosa sta dicendo il pomeriggio del pallone? Beh, innanzitutto c'è Dario Ricci, nostro inviato al telefono oggi. Buongiorno Dario. Sì, buongiorno Carlo, mi dai la linea nel momento in cui Alberto Paloschi sigla l'1-1 del Chievo a Parma, gol dell'ex per Paloschi, ex Parma, ex Milan, bravo a sfruttare un rimpallo, anzi un errore proprio della difesa del Parma, e che mette fuori gioco il portiere del Parma Mirante, un tocco arretrato nel tentativo di anticipare Terot, e Paloschi recupera il pallone sulla linea di fondo e praticamente a ridosso del primo palo insacca da un metro. Parma 1, Chievo 1, Carlo. Parma 1, Chievo 1, vediamo subito un gol in diretta. Gli altri invece ve li raccontiamo in differita, e sono comunque risultati in divenire naturalmente. Subito una sorpresa, che è quella del Lecce, che sta vincendo con pieno merito sul campo del Bologna al 37esimo. Segna Giacomazzi al primo tempo in tapin su respinta di Gillet, portiere bolognese che peraltro sta giocando molto bene, a testimonianza del dominio grosso modo del Lecce al Dallara. Nella ripresa al 15esimo un bel destro a giro dal limite di Grossmüller e 2-0 per i salentini. Il Catania sta vincendo 1-0 con il Cesena, trattenuta di Parolo su Del Vecchio al 45esimo allo scadere del primo tempo. Gervasoni che concede il rigore, Maxi Lopez che lo trasforma non senza difficoltà. Quindi altra vittoria che sta maturando sulla strada, imprevedibilmente. Genoa in vantaggio 2-1 all'Olimpico sulla Lazio, una Lazio che era passata con Sculli dopo 11 minuti. Sculli in spaccata su cross di Klose, che pochi istanti prima si era mangiato di testa un gol piuttosto facile per uno come lui. Poi sembra che la Lazio abbia finito la benzina dopo un quarto d'ora della ripresa. Infatti si è visto tanto Genoa al nono, Jorquera, uno delle facce nuove del nostro campionato, che slalomeggia a centrocampo, quindi libera Palacio, il suo tocco di esterno destro che porta il Genoa sull'1-1, mentre al 27esimo di nuovo Palacio protagonista dell'azione del raddoppio genoano con triangolo con Kucic, che si inserisce perfettamente. entra nella difesa laziale, salta anche Marchetti e tocca in gol. Dunque Genoa 2, Lazio 1 all'Olimpico. Quindi abbiamo raccontato in diretta il gol del pareggio del Chievo con il Parma al 24esimo del primo tempo. Sono due errori di fatto questi dei due gol dell'1-1 momentaneo tra Parma e Chievo. Andreolli che sbaglia l'intervento sparando rinvio addosso a Giovinco, col petto sotto di Giovinco, e gol del 1-0 per il Parma che ha giocato un buon primo tempo. Nella ripresa appunto Paloschi al 34esimo, e ve l'ha raccontato Dario Ricci. La partita più attesa forse del pomeriggio, cioè la Juventus a Siena, primo tempo incolore da entrambe le parti. Nella ripresa al 9, grande giocata di Vucinic, guarda caso, sulla destra che libera Matri, che a porta vuota porta in vantaggio la Juve. Pochi istanti fa Matri ha lasciato il posto a Alessandro Del Piero. Quindi l'Udinese che vince 2-0 sulla Fiorentina all'8° minuto. Una mano di in area fiorentina di Gamberini su colpo di testa di Benassia e di Natale che trasforma il rigore giustamente concesso da Romeo al 28esimo. Un episodio da segnalare, anche questo può essere un argomento di discussione, perché la Fiorentina c'è un Montolivo, sapete, conoscete il pregresso, no? Cioè le dichiarazioni della dirigenza viola, secondo cui Montolivo ha comunicato la sua decisione, me ne vado. E quindi la Fiorentina che ha detto, ha messo la questione nelle mani di Mihajlovic dicendo ok, lui resta in rosa, se vuoi gioca, altrimenti no. Mihajlovic ieri in conferenza stampa ha detto se sta bene gioca, e sta bene in questo momento, dunque gioca. Benissimo non sta, perché al 28esimo poteva essere espulso, chiaro gesto di nervosismo, con un fallo da dietro su Torge. Romeo alza il cartellino giallo, ma poteva benissimo essere un rosso. Mentre un minuto dopo, errore dello stesso Montolivo che offre sul piede di Isla il diagonale del 2-0. Qui da segnalare un altro episodio molto sfortunato che riguarda Alberto Gilardino, che al 24esimo si è fatto male, temo in maniera abbastanza seria, perché ho visto una torsione del ginocchio destro brutta, onestamente, in uno scontro fortuito con il portiere Handanovic. Quello fortuito, quello di sera di Lucio, altro tema interessante, meno. Prima Giorgio De Luca mi ha suggerito che su Twitter Elia, compagno di nazionale di Stekelenburg, che ieri ha preso un calcio alla tempia molto pericoloso, ha scritto I hate Lucio, io odio Lucio, protagonista di un gesto antisportivo che non è nuovo purtroppo per il giocatore brasiliano, che continua a considerare re dei simulatori, non mi sembra un giocatore che fa della sportività la sua dote migliore. Ieri sera ha offerto un'altra conferma. Lo stesso Giorgio De Luca, in attesa per Napoli-Milan di questa sera, mi segnala che il Tottenham ha battuto 4-0 il Liverpool in Premier League, mentre l'attesa ora è tutta per United-Chelsea. Ve l'ho detto, giornata di grandissimi eventi che comprendono, al di là del calcio, un gran premio di moto mondiale di cui dopo il traffico parleremo con calma, vinto da Stoner con l'ennesimo show davanti al compagno di squadra Pedrosa, a Lorenzo e a Simoncelli, mentre Valentino Rossi è protagonista dell'ennesima gara da dimenticare di una stagione, della stagione più grigia, vabbè, sto usando solo degli eufemismi, in carriera, soltanto decimo Rossi oggi. Ma anche noi siamo in attesa per la finale degli europei di pallavolo, finale degli europei di pallavolo che vedrà opposta l'Italia. Dopo 6 anni torniamo a giocarci una finale, Italia contro imprevedibilmente la Serbia, che ha battuto la Russia ieri grande favorita 3-2 con un ultimo pallone molto contestato, e oggi c'è la sfida con gli azzurri alle 18 che vale il titolo europeo. A proposito di titoli europei, stasera alle 20 c'è anche la finale degli europei di basket, la finale più corretta, più giusta alla luce di quanto è successo nel torneo, e cioè Spagna-Francia. Dario Ricci, è successo qualcos'altro sui campi di Serie A? Stiamo arrivando verso la fine. Ma finora non si è visto nessun altro gol dopo quello che vi ho segnalato in apertura, Carlo, solamente qualche segnalazione a margine. A Siena dal 30esimo al posto di Matri è entrato Del Piero, ricordiamo anche al 25esimo la traversa del Siena con Calaiò, poi al 35esimo una bella occasione in contropiede per la Juventus, spreca però Vidal calciando altissimo. A Roma invece Lazio vicina al pareggio al 38esimo con un tiro cross di Sisse, salva Frey respingendo. Grazie Dario Ricci, traffico, e poi ci colleghiamo con Alessandro Pasini, collega inviato del Corriere della Sera, per parlare di Moto Mondiale, delle nubi pesantissime su Valentino Rossi. Ci avviamo alla conclusione delle partite, nessun gol nel periodo del cui avete sentito la viabilità. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Ciao Alessandro, grazie. Ciao, buonasera a tutti. A Lazio sta perdendo, eh? Ale. Pronto? Eccoci. Sì, eccomi, sono qua, scusami. No, ti dicevo che ti ribadivo il parziale, la Lazio sta perdendo. Ah, ho capito. Vabbè, insomma, allora sta come Valentino, insomma. Perde anche lei. Così male, secondo te? Sta così male la Lazio? No, ora io non la sto seguendo da qua, per cui il risultato quantomeno parla di una sconfitta. E qui no, sicuramente pochi stanno male come Valentino. Adesso purtroppo si scherza e si ride, ma credo pochi. Forse l'Inter, lui oggi ha scherzato dicendo stiamo un po' come la mia Inter, siamo messi male. Ecco, forse il paragone è quello, e non c'è da augurarlo all'Inter, no, di prendere una parabola. Però in effetti c'è una similitudine, insomma, sembrano due giocattoli rotti. Che si sono rotti, no? E forse, vabbè, dove nell'Inter ci sono delle colpe, anche un po' c'è una sorta di autocompiacimento e di non lo so, qui purtroppo ci sono dei problemi tecnici ben differenti. Io credo che posso fare un'altra analogia. No? In entrambi i casi, no? Io non riesco a capire, a vedere le linee del futuro, perché è questo il discorso. Sì, certo, è così. No, l'unica differenza, se possiamo dire, è che sì, il futuro è estremamente nebuloso. Forse c'è da chiedersi, ecco, Valentino non aveva altra scelta se non prendere la Ducati. L'Inter poteva fare altre scelte, ecco, così, dovendo semplificare proprio ai massimi, secondo la mia idea. Ad ogni modo c'è da dire che qui siamo veramente sul fondo. Valentino ha appena finito di parlare, ha detto alcune cose abbastanza pesanti e devo dire, insomma, neanche tipo? Tanto velate contro la... Bah, dice, insomma, qui proviamo di tutto, ma non funziona niente. Gli hanno detto, quindi siete in confusione? Dice, no, dice, tutto quello che proviamo non va, come dire che c'è una coerenza, no? C'è una continuità nel fallimento. Qualsiasi idea fallisce, l'alluminio, il carbonio, insomma, qui ormai stiamo diventando tutti dei tecnici, impariamo delle robe sconosciute, ma alla fine non ci servono a capire il motivo. Perché Valentino va così piano? Perché l'anno scorso qua che esistone l'aveva vinto con la Ducati, addirittura la Ducati del modello vecchio, no? Quella, sai, quella che poi, se fossero moto da vendere, sarebbe già stata ritirata, no? Sarebbe già nel mercato dell'usato. Niente, le spiegazioni non ci sono. L'idea che Valentino la spiegazione ce l'abbia, cioè è una moto che non va, però è qualcosa di più sottile, diciamo la verità, cioè sono due entità, secondo me, non solo secondo me, che non si acchiappano. Questo è un matrimonio in cui, diciamo, i due elementi della coppia tirano fuori un po' il peggio dell'altro, no? Sì. Ecco, succede, ahimè, anche nella vita a volte. Beh, ma magari divorziano, due persone sono perfette in assoluto, ma divorziano. Ma poi, secondo te? Senti, no, Valentino adesso ha appena detto io ho ancora un anno e mezzo da fare qui e voglio farlo bene, quindi la tua domanda è corretta e devo dire che questa perplessità che noi avevamo avuto qualche mese fa poi era rientrata in forza delle dichiarazioni di Valentino, in forza dell'ottimismo sulla nuova moto eccetera eccetera, ora sta un po' ricominciando, no, a presentarsi, dice ma non è che qua, ecco, lui oggi ha detto di no, dice no, io resto qua ancora un anno e mezzo, ho ancora un anno e mezzo così e non lo voglio passare così. Poco fa parlavamo con Vittoriano Guareschi, che è uno dei due team manager, quello diciamo più tecnico, perché è un ex collaudatore, quindi è uno che la moto la conosce benissimo. Lui stesso dice non si può andare avanti un altro anno e mezzo così. E alla Ducati fanno mea culpa, dicono è la moto che non va bene, però io credo che anche il pilota abbia le sue responsabilità. L'ha detto, dice non guido bene, non sono in posizione, oggi addirittura ha detto ma insomma questa Sistone andava bene perché forse è una moto più adatta ai piloti più bassetti, io sono alto. Sono argomentazioni che anche sentite come da un pilota che non ha mai trovato scuse eccetera, insomma. È un po' come per l'Inter, non c'è fiducia e dunque dici però in questo modulo non mi trovo, e quindi inconsciamente la giustificazione ce l'hai. Il discorso è progettare insieme un futuro oppure separarsi, che magari può essere una soluzione più dolorosa ma più ragionevole. Guarda, l'Inter può trovare un nuovo allenatore, anche se poi c'è il problema dei giocatori, forse anche di qualche dirigente. Adesso non mi dire che Valentino non trova un'altra moto. Ecco, invece guarda qua, e stavo proprio dicendo questo, non è tanto il problema, è che per me sono le moto competitive, perché la MotoGP è un mondo strano, ci sono soltanto, bastava guardare oggi, 17 partenti, le moto ufficiali sono due per casa, le case sono 4, e quindi, anzi, la Suzuki ne ha una, insomma, il conto è fatto in breve, ci sono 6-7 moto buone, sì. E sono tutte assegnate. L'idea era quella, farsi un team privato con eccetera, però sai è complicato, anche se ti chiami Valentino Rossi, perché poi alla Honda cosa fai? Torni dopo che te ne sei andato in quel mondo. Con la Yamaha c'è Lorenzo e poi anche lì non ti sei lasciato bene. È questo che dicevo, cioè poi alla fine era un matrimonio, devo dire anche noi un po', perché noi siamo una categoria a cui piace, no, poi enfatizzare, trovare i titoli, così. È stato un po' veretto come il matrimonio del secolo, certo. Made in Italy, eccetera, eccetera, ma era anche un po' un matrimonio di interesse, no? Cioè la Ducati perde il più bravo pilota del momento e Valentino deve trovare una moto, insomma, e si sono messi assieme sperando che il 2 più 2 facesse 4, cioè grande progettista, grande storia aziendale, grande tecnica ingegneristica da un lato e il grande artista supremo, meraviglioso, il più grande sportivo, e lo continuo a sostenere perché è quello che ci ha regalato Valentino, no? Anche umanamente, dico anche il bambino, ha la fortuna di seguirlo. Però se non si piacciono che vuoi fare? Cioè, se non si piacciono che vuoi fare? Però se non sempre 2 più 2 fa 4 è banale, ma questo è il concetto. Per questo che le perplessità sul futuro sono fortissime. Le hanno anche loro. Se voi vedeste la faccia di Valentino quando parla del 2012, insomma. Ma no, ci credo. Sono due che non si piacciono, che non vivono bene insieme. Insomma, è inutile. La similitudine più azzeccata è proprio questa, al di là dell'Inter. È un matrimonio che non va, caro Alessandro. Grazie. Bene. Grazie a voi, grazie davvero. Ciao. Grazie ad Alessandro Pasini, comunque andrà avanti a chiacchierare perché mi sto divertendo a lungo, però c'è il finale delle partite, c'è un gol, un risultato che è cambiato, che è quello di prima, cioè quello di Parma-Chievo. Dario Ricci. Sì, Carlo, cambiato e protagonista nel bene e nel male in questi ultimi minuti di gioco. Sebastian Giovinco, finisce ora la partita, il Parma vince 2-1 grazie proprio alla doppietta di Giovinco, che ha siglato il suo secondo gol al 46esimo del secondo tempo, contropiede di Biabiani, il cross era su terra al centro e Giovinco che di destro insacca al volo alle spalle di Sorrentino, lo stesso Giovinco poi espulso a un minuto dalla fine dall'arbitro Doveri per doppia ammonizione, è andato a contendere un pallone alto a un difensore del Chievo, il fallo mi è sembrato veniva, forse era un cartellino rosso che l'arbitro poteva risparmiarsi, ma tant'è, l'ha invece estratto e quindi Giovinco, capocannoniere del campionato, espulso però. Intanto a Roma, ancora 6 minuti di gioco in questo lunghissimo recupero tra Lazio e Genoa, punteggio che rimane invariato, pochi istanti fa Sisse ancora lui di testa ha sfiorato il 2-2, finita chiaramente anche la partita di Siena con la Juventus che ha vinto 1-0 e anche quella di Catania 1-0 del Catania sul Cesena. Quindi si sta giocando solo all'Olimpico, giusto? Si sta giocando solo all'Olimpico in questo istante, ancora 6 minuti di recupero quando già siamo al 51esimo della ripresa. Eh sì, allora quasi finita anche questa. Io ringrazio Dario Ricci, noi ci fermiamo subito dopo il GR, vi riepilogo tutto quanto il tabellone dei risultati. E cominciamo, magari, se ne avete voglia, a chiacchierare insieme. 800 24 00 24 è il numero verde. Io penso stia per finire anche quest'ultimo risultato che rimane in bilico. Ecco il fischio in questo momento e dunque diventa ufficiale. Il Genoa vince 2-1 all'Olimpico con la Lazio in una delle partite così più interessanti del pomeriggio. Ci sentiamo dopo per cominciare a innescare tutti i vari temi di discussione. Sempre Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Alle 6 inizia Italia-Serbia, finale degli europei di pallavolo, e la vivremo con le impressioni di Andrea Zorzi. Guardate un po', tanto parliamo di calcio e dei temi che questa giornata ci sta lasciando sul tappeto, che non mi sembrano banali. A cominciare dalla cronaca dei risultati di oggi, con l'Atalanta che ha battuto 1-0 a Palermo, gol di Denis, papera piuttosto vistosa di Zorvas, portiere palermitano che ha lasciato passare il pallone sul primo palo, sul suo palo di competenza, dunque con grandi colpe, un Atalanta che ha fatto 4 punti ma si legge meno 2 in classifica per la ben nota penalizzazione. Quindi il Lecce che ha battuto 2-0 il Bologna a Bologna, Bologna che rimane fermo al palo dopo le prime 2 giornate, il gol di Giacomazzi dopo 37 minuti di gioco e quello bellissimo di Grossmüller al 15° della ripresa, prima vittoria stagionale per il Catania che batte 1-0 il Cesena su rigore, il gol al 45° del primo tempo trattenuta di Parolo su Del Vecchio e Gervasoni che concede il rigore trasformato da Maxi Lopez. Colpo esterno del Genoa all'Olimpico con una Lazio che regge un'oretta non di più dal punto di vista fisico, ho avuto questa impressione. All'11° segna Sculli per la Lazio in spaccata su cross di Klose, ma nella ripresa si vede tanto Genoa. Al 9° Jorquera che innesca Palacio, tocco di esterno destro del giocatore che Gasperini avrebbe voluto più di ogni altro, e gol dell'1-1, 27° Kuchka che si infila nel cuore della difesa laziale saltando in tromba un paio di difensori e battendo Marchetti su assist di Palacio. Il Parma batte 2-1 il Chievo nel segno di Giovinco che firma una doppietta, 24° del primo tempo e 46° della ripresa su cross di Biabiani da destra, c'era stato il pareggio di Paloschi al 34° del secondo tempo. Giovinco dunque capocannoniere del campionato con 3 gol dopo 2 partite ma espulso nel finale per un fallo. Dunque la Juventus era attesa delle conferme che sono in parte arrivate a Siena, è una Juventus che dopo i proclami di stelle filanti estivi 2-4-2, modulo estremamente offensivo di Conte, quella caccia sfrenata agli esterni, ebbene tutti gli esterni nuovi e vecchi, da Krasic ad Estigarribia ad Elia, che finiscono tra panchina e tribuna, e gioca una squadra, gioca, e Vidal mi segnala Giorgio De Luca per la computa degli acquisti estivi, tutti in panchina, e gioca una squadra estremamente pratica, estremamente equilibrata, con la conferma in grosso modo, anzi del tutto, del modulo che nella prima giornata aveva impressionato contro il Parma. Quindi squadra estremamente equilibrata, Pepe e Giaccherini esterni di centrocampo, in attacco oggi non c'era Del Piero che è entrato nel finale, ma Vucinic dal primo minuto, e guardo un po' proprio da una scintilla di Vucinic che continua a considerare uno straordinario giocatore, non so se top player, boh, ditemelo voi, 800240024, così ripeto il numero verde, messaggi 349-238-6666 oppure Facebook e Twitter, e ho sotto il naso diversi commenti che avete lasciato sulla nostra pagina Facebook a proposito dell'Inter, di cui tra poco parleremo. Ma tornando a bomba, Vucinic che al 9° del secondo tempo fa una grande giocata sulla destra offrendo a Matre il pallone della vittoria. Dunque Juventus che è a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate e ha vinto oggi come una squadra estremamente solida, concreta e compatta. Vedo Conte che sta già parlando con Sky e poi vi racconto Udinese-Fiorentina. Partita sicuramente non facile per noi, lo sapevo che giocavamo contro una squadra tatticamente molto ben messa in campo, che come primo pensiero è quello di chiudere gli spazi per la manovra offensiva degli avversari, poi cercare di ripartire con la velocità di Gonzales e con la bravura di Calaiò. Penso che noi siamo stati bravi a gestire la partita e fare la partita, abbiamo avuto la pazienza di trovare la situazione giusta e penso, ecco, che abbiamo trovato un gol che ci ha portato comunque una vittoria meritata, ecco. Ieri in conferenza stampa lei ha detto: gli elogi ci hanno fatto piacere dopo la prima partita, però sono stati eccessivi. Io le riporto quello che ha detto Matri, che ha detto l'anno scorso queste partite non le avremmo vinte, e quello che ha detto Costa Curta: la Juve sta diventando grande, perché certe partite vincerle così è sinonimo di grandezza. Ma cioè, chiariamo il fatto che noi non abbiamo vinto una partita per fortuna, questo chiariamo. Abbiamo vinto la partita perché l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, sapevamo che fare per cercare di far male al Siena. Abbiamo fatto una fase difensiva molto attenta, molto accorta, perché ripeto, quando difendono il Siena difende in otto e lascia Gonzales alto pronto per la ripartenza, devi essere preparato a tutto, perché puoi subire la beffa da un momento all'altro. Io dico che c'era la cattiveria giusta, l'interpretazione giusta, e che la vittoria è una vittoria meritata, ripeto, su un campo difficilissimo, dove secondo me parecchie faranno difficoltà, e ci speriamo che soprattutto le grandi facciano grosse difficoltà. Altro che coriandoli, questa è sostanza, quella di Antonio Conte, che ha di fatto schierato un equilibratissimo 4-4-2 simile a quello che l'anno scorso non andava bene con Del Neri, adesso va bene, ma questi sono forse altri discorsi. Vi dicevo di Udinese Fiorentina per completare il quadro della cronaca dei risultati, con l'Udinese che si è confermata forse la squadra più pericolosa di questo inizio di stagione, tra le medio grandi se vogliamo, battendo 2-0 la Fiorentina e come una settimana fa Lecce sbrigando la pratica in pochi minuti, no? In primi 29 del primo tempo, all'ottavo il fallo di mano di Gamberini su colpo di testa di Benassià e il rigore trasformato da Di Natale, quindi al 29esimo Isla che segna in diagonale nella ripresa, e attendiamo notizie più che altro, che non so se arriveranno oggi, un infortunio che sembra piuttosto grave a Gilardino in un confronto, in uno scontro fortuito con Handanovic. Questi risultati di oggi, aspettando Napoli-Milan, di cui poi parleremo a lungo, perché temo scosse telluriche a Napoli. Sapete che l'altra sera, dopo il gol di Manchester, insomma, l'osservatorio sismico napoletano ha registrato delle scosse, magari potrebbero arrivare anche questa sera. Ebbene, una classifica che dice a punteggio pieno, che manda a punteggio pieno Juventus, Udinese e Cagliari quota 6, quindi Genoa, Catania 4 punti, Napoli, Palermo, Fiorentina, Lecce, Parma 3 punti, Milan, Chievo, Lazio, Inter, Novara, Roma, Siena 1 punto, Cesena, Bologna 0, Atalanta meno 2, partita da una penalizzazione di 6 punti. Dunque, abbiamo finito la pagina della cronaca, tra poco vorrei cominciare con il commento con voi e con Giovanni dalla provincia di Pordenone, 800 24 00 24. Arriva la conferma, attenzione perché teniamoci, osservatorio napoletano che può mandare una prima scossa, la Vezzi gioca, è ufficiale? Non so, è ufficiale. Benissimo. Giorgio Luca dice di sì. A dopo. Dopo Interroma di ieri sera ci avete lasciato diversi commenti su Facebook. Corrado Botti: si cominciano a vedere dei miglioramenti nel gioco della Roma, manca ancora la velocità, il movimento degli attaccanti. Concordo, ma è importante quello che abbiamo visto ieri sera a San Siro, più che su questo 0-0 che era in qualche modo scritto, perché ho visto una squadra di proprietà di un allenatore che è Luis Enrique, che ha incassato una fiducia vera, mi pare, da parte del club, che si è tradotto in una fiducia vera da parte dello spogliatoio, e è andato a San Siro di fronte a quello che poteva essere un plotone di esecuzione con convinzione, rinunciando ai terzini, schierando due centrocampisti, Taddei e Perrotta ai lati, un centrocampo molto folto, un De Rossi a fare il centro mediano. Insomma, si è visto questo disegno originale, questa idea bizzarra, forse questa utopia di Luis Enrique, che vuole trapiantare a Roma il gioco, la filosofia e l'istinto del Barcellona senza averne le radici, perché sappiamo come a Barcellona tutto questo affondi le radici nel settore giovanile e in una filosofia ben precisa che comincia da lontano. A Roma invece si costruisce partendo dal tetto, quindi è qualcosa di bizzarro, però di originale, di curioso, di interessante e di condiviso a questo punto, mi pare, dallo spogliatoio. Dall'altra parte io invece ho visto grosso modo il nulla, al di là del fatto che per le bizzarrie del calcio l'Inter poteva vincere la partita e forse è andata più vicina a vincere la partita di quanto non ha fatto la Roma, però mi sembra una squadra che non ha ben chiara l'idea di ciò che sta facendo. Questo scrive Corrado Botti. Poi abbiamo Roberto Chessa: partita inguardabile, pessimo spot per il calcio italiano, molto meglio Cagliari Novara. Oppure Gaetano Rossano: se non fossi stato tifoso, dopo 10 minuti cambiavo canale. Ne abbiamo degli altri, poi li leggo, così come leggerò un paio di striscioni divertenti, cioè non divertenti ma realisti, apparsi ieri sera a San Siro. Giovanni, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Allora, ho appena assistito alla partita Udinese-Fiorentina e dopo la partita di domenica scorsa giù a Lecce, l'Udinese, dopo un buonissimo primo tempo, cala un po' nella difesa. Questo qui è probabilmente anche frutto di un certo tipo di preparazione che il mister ha impostato per quello che gli impegni europei. Sì. Ma secondo lei l'Udinese quest'anno dove potrà arrivare? Cioè, noi tifosi non diciamo ultras che spriamo sempre, la realtà quale potrebbe essere quella? Ma Giovanni, io credo che vi divertirete al di là di dove l'Udinese può arrivare, non, questo è molto difficile da capire. Secondo me farà un grande girone d'andata perché ce l'ha nelle corde e nelle gambe, è una squadra vera l'Udinese, non è qualcosa di inventato o di improvvisato. Dunque certamente farà un grande girone d'andata anche per il fatto che insomma ha dovuto tarare la preparazione per il preliminare di Champions League, è andato storto, purtroppo è più guardo l'Arsenal, l'ho visto anche ieri perdere 4-3 con il Blackburn, più mi rendo conto che l'Udinese ha buttato via un'occasione, forse non ci ha creduto fino in fondo. Però insomma mi sembra in questo momento la squadra più in palla, più in condizione, e questi 6 punti sono tutta in classifica, sono tutt'altro che casuali. Poi io credo che non sia la questione di dove può arrivare l'Udinese, non può arrivare a vincere lo scudetto ad esempio, può certamente lottare davanti per ripetere il campionato dell'anno scorso, sarà molto difficile, per rimanere stabilmente in zona Europa, mettiamola così. Mi sembra comunque una squadra che ha idee chiare, che ha una filosofia precisa, un'identità precisa e che ha anche qualità. E intanto c'è altro dato di cronaca, c'è una grande partita in Inghilterra, Manchester United che è in vantaggio sul Chelsea, gol dopo 10 minuti di Smalling, siamo al 20° di gioco. Gianni da Parma, buongiorno. Buongiorno, dunque io sono un po' contraria a tutto questo positivismo sulla Juventus, nel senso che sì, vabbè, sono contente, eccetera, soltanto che mi sembra che manchino dei recupera palloni a centrocampo, l'unico è Pazienza, che però non mi sembra questo grande fenomeno. Nel tempo la Juventus ha venduto un certo Nocerino che poteva essere utile, e ecco, mi sembra che si sono concentrati molto sul discorso delle fasce e poco sul discorso dei centrali di centrocampo, perché anche Vidal, che dicono che sia non l'abbiamo ancora visto nel suo ruolo diciamo naturale, probabilmente lui è la soluzione al problema, se il problema si creerà. Io volevo una sua opinione, cioè nel senso, il problema del centrocampo centrale, dirlo a parte, sì, esiste o... Gianni, io non lo vedo. Guarda, sentendola parlare, io capisco che le ultime stagioni sono andate come sono andate, dunque un po' di attesa ci vuole, non bisogna lasciarsi andare al facile ottimismo, ma neanche al pessimismo più sfrenato. Mi sembrava di sentire un tifoso dell'Inter che, insomma, la filosofia è quella... può sempre andare peggio, oppure se una cosa va bene, ma vedrete che prima o poi andrà male. A proposito di Inter, Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, nostro amico. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Secondo me i tifosi non hanno sempre ragione, tutt'altro, però sono quelli che hanno più di ogni altro il respiro e il battito del cuore della creatura che amano. Ieri sera ho visto un paio di striscioni, né contro la squadra né contro l'allenatore. Moratti, dopo Mourinho, dov'è l'uomo forte della società? Oppure un altro, prendere Gasperini e volere che non giochi con la difesa a 3 è come andare a Mignotte e chiedere le coccole. Pensavo mettessi il bip, invece l'hai detto. No, l'ho detto. Ops, mi è scappata. Sì, no, d'accordissimo sul fatto che il popolo non abbia per forza sempre ragione, però c'è una situazione di grande disagio all'Inter che va oltre le miserie umane e le piccole avventure dei Gasperini di turno, dei Benitez. C'è un disagio che va avanti davvero da quando Mourinho non c'è più, ormai è nell'alto dei cieli per il popolo interista, e diciamo che il club non è riuscito a riorganizzarsi a dovere, ecco, diciamola così, per dare un giudizio molto generale. Più in particolare, sicuramente Moratti per 2 estati consecutive si è trovato nel mese di giugno, a giugno inoltrato, senza aver ancora deciso chi fosse l'allenatore della prossima stagione. E questo secondo me è un punto di partenza pessimo. E poi se mi lasci fare il cattivo, Andrea, poi alla fine non l'ha deciso lui, o comunque è una scelta che non ha condiviso fino in fondo, allora ha detto io non compro nessuno. Poi prende Leonardo e dice vabbè, questo mi piace, allora gli compro Pazzini e Ranocchia. Guarda, ti correggo leggermente, perché questo è un errore in cui molti incappano, purtroppo. C'è da capire una cosa: Moratti ha l'ultima parola ed esprime le decisioni su tutto ciò che accade all'Inter, a cominciare dall'allenatore. Anzi, l'allenatore è proprio una cosa che Moratti sceglie personalmente, ascoltando magari i vari pareri. Poi è probabile che negli ultimi 2 estati abbia scelto non per il meglio, perché si è trovato a scegliere quello che si trovava a dover scegliere in quel momento, magari preferiva altri allenatori, però l'ultima parola, però vedi che questo è il peccato originale, se preferisci un altro allenatore non è intimamente convinto, l'abbiamo già visto con Cooper, esatto, confermato sotto condizione, ne abbiamo viste un po' in questi anni. Se non è intimamente convinto di questa scelta, in qualche modo non infatti con lo scorso anno il presidente dell'Inter Moratti voleva esonerare Benitez dopo la Supercoppa persa contro l'Atletico Madrid e non lo fece. Quest'anno io vi garantisco che Moratti si è cominciato a imbufalire il 6 agosto quando Gasperini ha perso il derby di Pechino, e quindi è chiaro che una scelta tardiva e neanche molto convinta porta guai. Questo perché il problema dell'Inter è che non c'è una programmazione specifica che parta da lontano. L'allenatore della stagione tu lo devi decidere a marzo, ad aprile massimo, così fanno i grandi club, quelli veramente organizzati. Sì. All'Inter non capita e se ne pagano Detto questo, caro Andrea, anche per colpe non proprie, nel senso che Pinocchio Leonardo doveva essere allenatore dell'Inter, ha torto, ha ragione. Ma guardate che anche su Leonardo c'erano un sacco di diffidenze reciproche, anche lì c'è stato un momento in cui l'Inter ha perso col Milan e con lo Schalke 04, si è capito e molti nel club hanno cominciato a capire che Leonardo forse non era l'uomo giusto, però ci si è trascinati fino a giugno e io non credo neanche che sia stato un vero tradimento di Leonardo alla lunga, ma sia stata quasi una separazione consensuale. No, alla fine è una questione di sensazioni. La sensazione che ho io è che l'Inter volesse tirarla ancora questa stagione aspettando per la prossima l'allenatore della vita, no? L'allenatore da sposare sul serio. Quindi Leonardo poteva andare bene per gestire la situazione, si è dimostrato il più furbo poi nella gestione della situazione, l'unico che è entrato spirito del gruppo, anche se forse è un allenatore meno preparato nel complesso rispetto a Benitez e a Gasperini. Anche Gasperini non è l'allenatore della vita per l'Inter. No, assolutamente. Assolutamente. È stato un allenatore che è stato scelto nelle modalità che conosciamo, e in questi primi due mesi non è ancora riuscito a entrare in sintonia con tutto l'ambiente. Del resto è difficilissimo, perché l'ambiente interista è molto particolare, molto scivoloso, mancano molti punti di riferimento, un allenatore spesso lavora quasi da solo, senza molti appoggi, e sbaglia anche molto, perché è indotto a sbagliare. Gasperini di sicuro non è riuscito ancora a mettere su una squadra, e la prova sta nel fatto che insomma ha cambiato molto spesso in queste prime partite senza trovare la quadratura. Lui si lamenta molto del fatto che non ha avuto spesso i giocatori a disposizione perché molti andavano via con le nazionali, ma questo è un problema che hanno tutti gli allenatori di grandi club, certo. ed è lì che poi bisogna sapere incidere, no? Certo, certamente. Questo è il problema. Poi secondo me Gasperini è una persona preparata, un allenatore che ha una certa esperienza, è alla sua prima grande occasione e sta cercando di giocarsela, quindi io non sono da quelli che dicono che Gasperini è un incapace, un incompetente. No, ma tutt'altro, è un bravissimo allenatore, esatto. Poi resto convinto del fatto, mentre vedo Girardino andare in ambulanza, così brutto infortunio per lui, lo ripeto, il ginocchio sinistro, che ha avuto una torsione brutta in questo scontro con Handanovic. Io resto profondamente convinto del fatto che comunque tra fare l'allenatore e allenare un grande club ci sia una grande differenza, nel senso che se un grande club non lo alleni, gestisci una situazione molto ampia, no? Non lavori sul, non è lavoro di campo, è una cosa diversa. E quindi ci sono per dire Leonardo, che non considero forse neanche un allenatore, adesso non lo fa neanche più. Però nel gestire l'ambiente, gli uomini, le situazioni, i contratti, i malumori, tutte queste cose era bravo, non era bravo come allenatore, forse non sarà mai. Gasperini è bravo come allenatore, ma in un grande club non serve tanto lavorare sul campo, non serve più di tanto lavorare sul campo, servono altre cose. Per chiudere, Andrea, che sensazione, che impressione ti ha lasciato invece la Roma dell'utopia di Luis Enrique? Qui profondamente diversa, a mio parere, perché ho la sensazione invece che Luis Enrique, e l'ho detto prima, abbia incassato davvero una fiducia, non una difesa d'ufficio da parte della società come Gasperini, abbia incassato davvero la fiducia da parte di questa società in divenire che è ancora la Roma, di questa cosa strana che è ancora la società Roma. E questa fiducia reale si sia tradotta in una convinzione da parte dello spogliatoio. Ieri sera ho visto quantomeno una Roma curiosa. si è vista una Roma che prova a giocare al calcio e a mettere in mostra un lavoro che viene fatto durante la settimana. A me ha colpito molto la ricerca persino ossessiva del palleggio continuo del tiki-taka famoso di Barcellona. Quella è una cosa importante, perché loro arrivano anche a rischiare dei disimpegni un po' particolari pur di cercare sempre il passaggio, il fraseggio per arrivare dall'altra parte. Questo è senz'altro il marchio di Luis Enrique, che ovviamente deve aspettarsi qualcosa di più a livello di incisività offensiva, però le squadre partono da dietro, dall'organizzazione difensiva, e la Roma mi sembrava piuttosto organizzata, molto alta nel pressing, insomma c'era qualcosa, c'era un lavoro, e senz'altro i giocatori hanno recepito il messaggio di due settimane fa, quando la società ha detto Luis, con Luis Enrique fino alla morte, cosa che all'Inter non è stata detta. Esatto. Ecco. No, poi vediamo se Luis Enrique riesce di costruire per la prima volta nella storia una casa dal tetto, no? Perché a Barcellona partono dalle radici del settore giovanile e cominciano a giocare con lì da lì in poi, no? Lui ha invece cominciato dal tetto, vediamo se gli riesce il resto della casa. Però mettere due centrocampisti come terzini è una cosa che nessuno fa e nessuno neanche penserebbe mai, e lui invece l'ha fatta, gli è andata bene ed è stato bravo. Grazie Andrea. A voi. Grazie. 800 24 0024, fatemi sentire la vostra voce. Massimo da Roma, Giovanni da Brescia in linea, però adesso c'è un collegamento con Emilio Buttaro a Bologna dopo la vittoria del Lecce. Ciao Emilio. Sì, buonasera a te Carlo e a tutti gli ascoltatori. Sono in compagnia del mister del Lecce, Eusebio Di Francesco. Complimenti intanto per il brillante e meritato successo, davvero oggi meglio di così non poteva andare per la sua squadra, mister. Beh sì, sotto tutti i punti di vista, al di là del risultato, anche per l'espressione del gioco che c'è stata da parte della squadra e dell'ottima gestione della gara in tutto, dopo il vantaggio, è stata ottima. Quella di oggi forse è stata la miglior risposta alla sconfitta casalinga di domenica scorsa. Domenica dopo 13 minuti eravamo sotto i due gol, abbiamo sicuramente avuto oggi un approccio diverso, tranne i primi 5 minuti, però dopo la squadra anche in fase difensiva ha fatto un'ottima partita. Diciamo che anche la sua squadra un po' nel suo palleggio ha coinvolto praticamente tutti gli effettivi, davvero una prestazione brillante. Ma questo è un po' quello che riportiamo durante la settimana, la ricerca del possesso palla, di questa palla a terra che oggi la mia squadra ha espresso al meglio. Carlo, non so se c'è qualche domanda. No, solo complimenti, e anche il fatto che stiamo scoprendo dei giocatori. Mi sembra che Julio Sergio abbia giocato un'altra splendida partita. Quadrado mi sembra un giocatore estremamente interessante. Grossmüller, che ha fatto il gol del 2-0, idem. Insomma, mi sembra anche che la qualità, mister, sia buona. Sì, per poter giocare palla a terra e per cercare di cercare il palleggio è inevitabile che tu metta in campo dei giocatori che abbiano qualità. È normale che in questo momento bisogna essere anche squadra, e questa squadra comincia ad esserlo. Mister, per chiudere, mi domandano molti ascoltatori dove può arrivare l'Udinese che lei ha visto sul campo una settimana fa. Mi sembra che in questo momento sia forse la squadra più in condizione della Serie A. No, sono stato un po' in Europa League, però devo dire che ha le capacità, le qualità per poter modificare l'assetto, ha sempre alternative importanti e ha giocatori di grande gamba, può fare molto bene. Grazie Emilio Buttaro con Eusebio Di Francesco, autore con il suo Lecce di uno dei colpi di giornata con la vittoria di Bologna. Intanto il raddoppio del Manchester United sul Chelsea, gol di Nani, e chissà se adesso Abramovich vuole mandare via Boas, magari può sentirsi con Moratti? No? Dite di sì? Non credo, Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io penso che Moratti si deve dare una calmata, si siede, si deve vedere, pensare. Con Leonardo che ho fatto... Va via, siamo tutti un po' più contenti. Siamo tutti, ma sì che la sento, siamo tutti un po' più contenti, no, di queste. L'Inter è più di una squadra di calcio. Come scrisse un giorno Beppe Severgnini, nessuno riesce a staccarci gli occhi di dosso, siamo terribilmente sexy, è vero, l'Inter è bella così, almeno per chi non è tifoso dell'Inter, io non lo sono. Niente. Sì che la sento, dica, deve sedersi a fare cosa, dica. Voglio dire una cosa, se fosse un po' più calmo e avesse tenuto Benitez, no? Tanto quello che ha fatto l'altro lo faceva anche Benitez. L'avrebbe fatto anche Benitez. Quindi praticamente oggi avrebbe una squadra ricostruita in parte, perché tanto un allenatore come Mourinho è un po' particolare, un allenatore che è un po' di tutto e un po' di niente fondamentalmente, no? Quindi oggi come oggi lui aveva qui ancora in casa, avrebbe avuto ancora in casa, scusi che siamo, un uomo come Benitez, e forse una squadra molto competitiva. Ma sa, se Massimo Moratti non è convinto di una scelta, non riesce a non riesce a nascondere la sua mancanza di convinzione. Di Benitez non è mai stato convinto, non lo è nemmeno di Gasperini, e poi sono contrario a guardare sempre indietro se fosse rimasto quello, se fosse rimasto quell'altro. La verità è che trauma distorsivo al ginocchio per Gilardino, si vediamo quanto grave, mi segnalano dalla regia. Insomma, Moratti di Gasperini non è convinto, non era convinto di Benitez, che pertanto non poteva avere vita lunga all'Inter, come Cooper prima di lui, come Zaccheroni, come molti altri. Non è ancora stato individuato, io credo, un allenatore da sposare, tra virgolette, per Massimo Moratti dopo il divorzio traumatico da Mourinho. E dunque si va avanti in altalena. Chi sale su quell'altalena sa benissimo che verrà messo in discussione al momento. Giovanni, che sia Gasperini, che sia Degli Orossi, che sia Ranieri, che siano i nomi che sono stati fatti, non c'è in questo momento, la sensazione è questa, una scelta precisa da sposare. Giovanni da Brescia, buongiorno. Buongiorno, sono un vecchio interista ormai, cinquantenne, le ho viste tutte, ero abbonato ancora ai tempi di Ulrico e quindi ho sempre privilegiato lo stadio, il calcio giocato, sì, rispetto a quello parlato. Quindi lei sa perfettamente che per chi non è interista l'Inter è un argomento troppo divertente, mi spiace. Guardi, la capisco, ma come diceva Severgnini, che lei ha citato, siamo troppo sexy, non riescono a staccarci gli occhi di dosso. Questo lo scrisse, mi è rimasto impressa perché è vero, e lo scrisse ai tempi di Vivas Oba Martins, del derby perso col Milan, in quell'epoca lì, quindi non l'altro ieri. No, ma siamo capaci di tutti, come diceva, belli a volte, pazzi spesso, noiosi mai. Bravo, quindi, bravo Giovanni, esattamente così. È il nostro motto. No, tornavo al buon uomo di Gasperini, bravissima persona che stimo, rispetto sia per il suo passato che per le sue dichiarazioni che per il lavoro fatto. Però, cari miei amici interisti e non, questo qua non c'è ancora capito nulla. Parte della responsabilità è sua, parte, perché parte anche dalla società, ma io ho visto anche ieri sera contro, se mi permette, un progetto di Roma, una rumetta. Non siamo riusciti a fare nient'altro che delle azioni isolate, qualche tiro di Forlan, uno di Sneijder, certo, qualche... Però Giuliano, mi permetta, non è facile per un allenatore, che sia Gasperini o un altro, muoversi in un generale clima di sfiducia che parte dalla società. Giovanni. Caro, però non ha fatto neanche lui niente per... cioè, abbiamo passato 2 mesi e mezzo di allenamenti, sì, sì, abbiamo visto una prova discreta, 60 minuti contro il Milan, le amichevoli ci avevano già dato qualche sintomo, come no, dall'Olympiacos, tre dal Chievo. Cioè, io non posso dire, come dicevo tanti miei amici, visto che lavoro in ricevitoria, dire: signori, o le vinciamo tutte 5-4, se no non so come va a finire. Quella di Palermo purtroppo è andata così, e ieri sera ho visto di nuovo una squadra che è in balia dalle iniziative avversarie e soprattutto non riesce a proporre quel calcio di un certo tipo e con una certa stabilità e un certo credo che eravamo abituati a vedere, persino col tanto vituperato Cooper, ma che comunque aveva dato un'anima. In questo caso mi sembrano 11 giocatori, buoni giocatori, ma ognuno per sé, Dio sì, per tutti. Sì, ecco, sì, anch'io quell'idea. No, ma anch'io quell'idea, cosa... Però Giovanni, onestamente Gasperini lavora lì da 2 mesi. Quindi, lo so, però se hai una squadra di over 30 e sì, ha fatto sempre 4-4-2 o al massimo 4-3-1-2, è impossibile stravolgerla con 3 giocatori che hanno... Ma torno a dire, sono d'accordo, ma questo all'Inter lo sapevano, no? E allora torno allo striscione di qui sopra. Prendere Gasperini e volere che non giochino la difesa 3, hanno scritto i tifosi di San Siro e comandare a Mignotta e chiedere le coccole. È vero anche quello, li confermo, certo, però a un certo punto... Ma devi saperlo, come devi sapere che Forlan non può giocare in Champions League. Sono cose che una società mette sul tavolo quando deve prendere una decisione. Dunque non puoi dire: prendo Gasperini che ha sempre fatto questo calcio. È chiaro che secondo me gli allenatori devono essere gli allenatori bravi, soprattutto se allenano grandi club, perché, torno a ripetere, è un mestiere diverso rispetto a fare semplicemente l'allenatore di calcio. Quindi se approcci un grande club per la prima volta in vita tua, magari un po' di duttilità ce la devi avere. Però devi anche sapere, tu che prendi un allenatore, che tipo di calcio questo che è un allenatore di una certa esperienza è abituato a fare e ha fatto per tutta la sua carriera. Dunque, insomma, non puoi pretendere che questo arrivi e stravolga improvvisamente il suo modo di vedere il pallone. Dunque, poi concordo sull'impressione che l'Inter in questo momento sia una squadra neanche alla ricerca del risultato, alla ricerca di una strada, una squadra che viaggia al buio, che non sa dove andare e cosa fare. Questa impressione è corretta, la condivido. E il parere dei tifosi illustri ha un suo peso in questa gestione comunitaria strana del Club Inter. Fiorello torna a dire: io Pazzini in panchina non lo posso vedere, dopo che settimana aveva tentato un blitz per l'esonero di Gasperini. Intanto 3-0 del Manchester United sul Chelsea di Villas-Boas, segna Rooney. E c'è un ascoltatore che mi scrive questo: ma sei 2 minuti avanti rispetto alla partita del Manchester, hai detto del gol 2 minuti prima. No, in realtà ve lo devo dire, io ho capacità divinatorie, non ve l'ho mai confessato. Infatti vedo che Gasperini sarà esonerato, vedo che il Napoli questa sera batterà il Milan, 800240024 numero verde. Vedo una Juventus che mi sembra una squadra in grande crescita, non dico da scudetto, sennò qualcuno cade dalla sedia. Alex da Tormina vorrebbe che parlassi una mezz'oretta di Ilaria D'Amico, volentieri se mi chiama al telefono facciamo 2 chiacchiere anche su questo. Vedo invece Mihajlovic che parla con Sky, voglio sentirlo anche prima di Giuliano. Vuole dopo 6 minuti secondo gol casuale, perciò si è messa nei binari giusti per Udinese, perché difendevano bene e ripartivano bene, che è la loro miglior caratteristica. Noi abbiamo cercato di proporre il nostro gioco, abbiamo tenuto la palla, però purtroppo davanti non abbiamo creato tanto, perciò siamo mancati un po' in fase offensiva. Poi secondo tempo, ecco, mettendo 2 punte più anche Jovetic dietro le punte, cercando di essere ancora più offensivi, cercando di recuperare la partita, dopo un minuto si è fatto male Girardino e è scombussolato comunque tutti i piani. Questo è Mihajlovic. Giuliano da Treviso, buongiorno. Buonasera. E niente, anch'io vedo, domani devo andare dall'oculista per cambiarmi gli occhiali, per cui senta una cosa, niente, io volevo chiedere, seguendo un po' il suo discorso su un allenatore che deve avere alcune specificità per una grande squadra, sì. Allora, al di là del passato che può avere Conte, ma Conte l'avrebbe visto lei all'Inter? No, io non la vedevo bene neanche alla Juventus. Senta un'altra cosa, Tardelli all'Inter, come le sembra che potrebbe essere stato? Può? Boh, Tardelli? Sì, Tardelli. Boh, insomma, mi sembra che anche lui di lì ci sia passato, no? No, ma non lo so, possiamo buttare lì a caso tutti i nomi che vogliamo. Io torno a ripetere, quella dell'Inter non è una questione, non è una crisi di chi sta in panchina, è una crisi societaria che prescinde grosso modo da quali sono le scelte estemporanee del momento. Non vedrei nessuno di tutti questi, caro Giuliano. Saluti invece, ringrazio un altro allenatore come Gigi De Canio, che oggi ci fa l'onore della sua compagnia. Gigi, buongiorno. Buonasera a tutti, bentrovati, è un piacere anche per me. Grazie. Buonasera, che è stato, lo ricordo, uno dei maestri di Antonio Conte, suo vice sulla panchina del Siena. Beh, è dire tanto, maestro. Comunque credo sì di poter dire, senza tema di essere smentito, di avergli dato questa opportunità di farsi conoscere come allenatore e poi di intraprendere prima del tempo questo percorso, questa strada. Io sono stato critico, lo sono anche poco fa, sulla scelta di Antonio Conte da parte della Juventus, che mi sembrava troppo acerbo per un ruolo così difficile. Ho notato anche però che dopo tanti discorsi di coriandoli, trombette estivi, Conte è stato molto bravo nel presentare quando i giochi sono diventati importanti una squadra estremamente equilibrata come la Juventus delle prime 2 giornate. Lui ha avuto modo, naturalmente, riflettendo anche sulle scelte della Juve di questi ultimi anni, nel frattempo di fare qualche esperienza e di modificare un po' anche alcuni aspetti del suo carattere, senza però cambiare. E poi, quindi, conoscendo molto bene l'ambiente è riuscito a presentarsi così come forse in questo momento alla Juve era necessario presentarsi, con questa sua determinazione e comunque la possibilità che di conoscere l'ambiente interno ed esterno fondamentali. Mi faccio una domanda difficile, in prospettiva la vede da scudetto questa prima Juventus di Conte? Non lo so, sinceramente al momento no, e credo che nessuno possa forse pensare il contrario, nemmeno loro. Poi è chiaro sperarlo e lottare per poterci arrivare, e questo sì, questo è possibile, ma la squadra e la società ci devono mettere tanto, sì, tanto di loro per sostenere anche questo lavoro di Antonio Conte. Mister, invece da allenatore come l'ha vista la gestione degli allenatori di ieri sera di Inter-Roma? Cioè come ha visto il lavoro delle panchine di ieri sera? Beh, l'Inter e la Roma sono indubbiamente due squadre in questo momento in difficoltà anche l'Inter di fiducia. E io credo questo, lo dico così in maniera molto tranquilla, sperando di non essere equivocato, però bisogna che dica quello che penso. Certamente. Quando una società sceglie un allenatore deve avere ben chiaro il quadro delle caratteristiche dell'allenatore, deve anche chiedere eventualmente all'allenatore di non disperdere il patrimonio di conoscenze che una squadra ha acquisito nel corso degli anni, e l'allenatore poi magari avere anche l'elasticità, certo, di poter modificare anche il suo credo per poter valorizzare le risorse umane di cui dispone, quindi il patrimonio di conoscenze che queste risorse hanno acquisito nel corso degli anni. Ove mai questo non dovesse accadere, dovrebbe essere perché una strategia, una nuova strategia, una nuova filosofia da parte della società viene richiesta all'allenatore, e col quale, e condividendo questa strategia, questa filosofia con l'allenatore, ristrutturare e quindi ricominciare da capo un ciclo. Non mi sembra che questa sia la volontà della società, e credo che quindi in questo momento forse ci sia un po' di confusione in questo senso, per cui i giocatori forse sono un po' disorientati. Per quanto riguarda la Roma, ecco, invece lì è avvenuto quello di cui stavo parlando prima, c'è una richiesta parte di una società nuova per andare per ristrutturare tecnicamente. Ora è chiaro che non bisogna pensare che Luis Enrique possa da solo trasformare e portare un guardiolismo in Italia, certo, così all'improvviso. Però Luis Enrique è un bravo allenatore, ma come bravi ce ne sono in Italia che fanno giocare bene le squadre, sicuro, che hanno anche una certa filosofia. La filosofia deve essere sempre di una società che deve, certo, sempre poi trasmettere ai suoi dipendenti quello che vuole e avere, certo, poi la capacità di saper scegliere gli interpreti che sanno poi realizzare questa. Assolutamente, questa, si parte da lì, una cosa che alla Roma pur tra mille difficoltà in questo momento è chiara e all'Inter no. Mister, io la ringrazio, in bocca al lupo. Scusate, a presto. Se mi sono dilungato, no, perfetto, grazie a voi. Io ringrazio lei, Gigi De Canio, ci fermiamo per il GR 800 24 00 24. Tenetevi forte perché dopo arrivano le scosse telluriche da Napoli, a più tardi. Un pallone è la più bella cosa per chi lavora e non si riposa, perché un pallone ci fa scordare di tutti i guai che dobbiamo sopportare. Un pallone è la più bella cosa per chi lavora e non si riposa, perché un pallone ci fa scordare di tutti i guai che dobbiamo sopportare. E la domenica, la partita, ci divertiamo senza fatica, e il pomeriggio quando è finita io vado al cimera insieme a te e ripensando ai nostri campi. Certo, se Napoli avrà Lavezzi questa sera, ve l'abbiamo detto prima, a costo di far impazzire i sismologi dell'Osservatorio di Napoli. Certo, avesse anche magari a subentrare dalla panchina Max Peluso, stasera Mazzarri, sarebbe più contento. Max! Ehi, caro, come stai? Francesco Paolo Antoni, un attore che mi fa impazzire, ciao. Ma che bello sentire questo inno sentire a te. Napoli. Sì, eh? No, io ti devo confessare che mio collega in redazione, Giorgio De Luca, che tu prima hai sentito al telefono, da una settimana, sì, quando mi vede si tocca, mi fa le corna, me ne fa tutti i colori, perché io continuo a dire che il Napoli stasera è favorito col Milan. Che ci posso fare? Ma guarda, questo fatto del ti tocca... Fammi vedere le mani. No, ma non lo dire a me, perché io ho passato un brutto guaio ai tempi di quelli che il calcio, quando andavo ospite, a quelli che il calcio... Il Napoli sfortunatamente era un anno terrificante, per cui quasi sempre quando andavo a quelli che il calcio il Napoli perdeva, e se la sono presa con me per un sacco di tempo, quindi conosco bene chi si tocca quando ti vede. Poi figurati, l'altro giorno ho anche detto, beh, uno dei segreti del Napoli non si fanno male mai. Te lo lascio immaginare, te lo lascio solo immaginare. Ma al di là di questo, la partita di questa sera, insomma, posso dire che il Napoli è favorito stasera contro un Milan che ha un sacco di assenze, posso dirlo? Ma tu lo puoi dire, tu lo devi dire, lo devi assolutamente dire, è quello che penso anch'io. Io sono veramente, guarda, tu non sai io come sto combinato oggi, perché diciamo che vedi le purtroppo... I vantaggi di questo mestiere sono tanti, tantissimi, del mestiere dell'attore, però ci sono anche delle controindicazioni. Io per esempio stasera tengo uno spettacolo, hai capito? Sarò in scena mentre il Napoli straccerà quella squadraccia infame nel Milan, hai capito? Sei in scena dove? Sono in scena a Bisceglie con uno spettacolo il cui titolo si intitola Che fine ha fatto il mio io, hai capito? Quindi mi interrogherò su me stesso mentre il Napoli, capito, lo diciamo io e te, che straccerà questa squadra capitanata da perché, capito, è anche una, purtroppo ormai tutto è politica, quindi anche questa sera sarà una battaglia politica. Ma sai, io quando quest'estate ho sentito il Premier dichiarare ho promesso ai napoletani che non prenderò Hamsik, io gli ho detto, capito? Boh, è fatta, Hamsik al Milan, matematico. Esatto. E quindi ci abbiamo un sacco di cose da recuperare, capito? Ci abbiamo un sacco di pietre dalla scarpa da toglierci. Senti, ma il tuo presidente invece come lo vedi? Ma il mio presidente... È meraviglioso. Si sta dedicando molto al calcio, ha abbandonato quasi esclusivamente il cinema, perché ha capito che col calcio che il vero cinema è il calcio, molto di più, hai capito? E allora grazie a questo si sta dedicando molto al calcio, e quindi siamo contenti. Insomma, ci siamo divertiti con il Manchester, io l'ho vista in 3D, quindi ho goduto 3 volte di più, insomma, mi sono molto divertito. Ma occasione buttata o prova di persone? Perché secondo me sì. Ma come no? Eravate in vantaggio. Sarebbe stato veramente meraviglioso, però è andata bene, io sono contento, perché intanto che ho assistito a una partita proprio divertente, bella, emozionante, per cui è vero, insomma, potevamo avere l'occasione proprio di uscirne da eroi, però insomma abbiamo rischiato anche, per cui va bene così. Intanto le fatture funzionano, perché Ibrahimovic invece che essere in campo è in Svezia a caccia di alci. Hai capito? Ascolta a me. Giochiamocela così e andrà bene. In bocca al lupo Francesco per stasera. Grazie. Per il Napoli e per lo spettacolo. Grazie, viva soprattutto il Napoli. Ciao, ragazzi. Ciao, grazie. Grazie a Francesco Paolo Antoni. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire. Messaggi 349 238 6666, e su Via, anche su Facebook, su Twitter, siamo lì. Italia 15, Serbia 12. Questo è il primo set della finale degli europei di pallavolo. Primo set in corso, 16-12 in questo momento per noi. Torno con piacere agli ascoltatori. Maurizio da Latina, buongiorno. Buongiorno dottor Genti, innanzitutto ringrazio per l'aggiornamento, io sono in viaggio per la pallavolo, per il risultato che si sta non arriveremo naturalmente a darvi il finale perché alle 19 sciogliamo le righe, però 18-13 primo set, poi sentiamo anche Zorro che dice, dica. Sì, no, lei, io intanto volevo per par condicio rispondere al Paolo Antonio, io dico forza Milan, e quest'anno però non sono particolarmente ottimista perché una campagna acquisti fatta con 500.000 euro badando più al portafoglio che al reale utilità per la squadra non penso che ci porterà lontano, quindi sarà una, a mio avviso un campionato abbastanza modesto. E dai, è col pessimismo, ma il Milan è più forte dell'anno scorso. Il Milan è più forte. Innanzitutto è una squadra fatta, è una squadra che ha equilibrio, è una squadra che ha idea, che ha un'anima. È una squadra che ha un'anima sulla quale sono stati innestati due giocatori di 500.000 euro. Ma cavoli, mi sembra un grande affare, no? Porti a casa Aquilani e Nocerino, cioè due sicuri rinforzi per quella cifra. Beh, mi sembra che sia stato, se la cifra reale, un ottimo affare. Non ne vedo molte altre che si sono così rinforzate, no, dopo la campagna acquisti estiva, Maurizio. Sì, ma la seconda già abbiamo tanti infortuni e poi quello che a me secondo me manca è stato un forte terzino sinistro che non è arrivato ed un vice Ibrahimovic. Che lei dice Taiwo già bocciato. Ma almeno le prime uscite non mi sembra un fulmine di guerra. È arrivato anche Taiwo, è arrivato Mexes, che non è l'ultima ruota del carro, è un signor difensore centrale, soprattutto se potrà giocare accanto a due mostri come Nesta. È stato preso come titolare o come riserva? Questo è il problema. Mexes è stato preso come backup dei due titolari che sono Nesta e Thiago Silva. Sappiamo come Nesta sia un giocatore straordinario, rimanga un giocatore straordinario che però ha avuto di recente tanti problemi fisici e dunque averne di riserve come Mexes. Adesso sta per rientrare, ci vorrà un po' di tempo perché l'infortunio che ha avuto è stato grave, però mi sembra un'eccellente soluzione sul fronte dei difensori centrali, tenuto conto del fatto poi che la grandezza dei due del Milan è che migliorano il rendimento dei compagni di reparto, insomma sono due giocatori mostruosi per questo e credo abbia ragione Galliani quando dice se stanno bene e giocano sono la più forte coppia centrale del mondo, probabilmente è vero, dunque mi sembra che il Milan si sia rinforzato, è chiaro ha problemi di infortuni, oggi va a Napoli senza mezza squadra, vedo Napoli favorito nella partita di questa sera, però non sottovalutare l'orgoglio dei campioni, insomma così dicono in America e lo dico anch'io. Grazie Maurizio. Marco Milano, buongiorno, buonasera. Buonasera, buongiorno, come preferisce. Marco? Marco? Pronto? Sì. Eccolo, dica. Sì, scusa. Niente, io sono tipo interista. Sì. Ho sentito prima l'intervento di Di Cagno, che diceva che per supportare un allenatore ci vuole la filosofia della società, ed è vero, sono tutte cose sacrosante. Il problema è che in Italia è quasi impossibile, perché qui aveva ragione Sacchi quando diceva che si dà troppa importanza al risultato, cioè se un allenatore vince 1-0 con una culata è un fenomeno, se fa 0-0 dominando la partita è l'ultimo dei brocchi. Sì, questo lo sappiamo bene Marco, però è anche vero che non si può estremizzare in questa maniera, nel senso che il succo di quello che diceva De Canio è che almeno mi sembra di aver interpretato così. Mentre la scelta di Luis Enrique sia stata così in qualche maniera ponderata, anche se molto rischiosa, quella di Gasperini sia stata grosso modo casuale, cioè hai preso un allenatore e poi ti rendi conto che ha sempre giocato in una certa maniera e che magari i giocatori che hai, che sono comunque patrimonio della società, non si adattano al modo di giocare dell'allenatore che hai preso, quindi è questo il senso del discorso, no? Ogni tanto Moratti ha queste, sembra quasi che prenda un allenatore per poi mandarlo via dicendo avevo ragione io, non volerlo prendere, cioè sembra un po' questo. Sembra un po' così anche a me, le dico la verità. Detto questo, l'unica cosa di Gasperini, che modulo o non modulo, se l'Inter ha un giocatore che è un fuoriclasse, è Sneijder, è sicuro, non può. E deve giocare, quindi un posto glielo deve trovare. Dopodiché la formazione è Sneijder e altri 10. Sì, Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, ma mi sembra anche che sia quello che dopo le discussioni iniziali sia stato anche grosso modo fatto. No? Ieri sera Snyder è partito in una posizione in cui non rendeva, troppo arretrato, in cui non poteva essere importante per il gioco dell'Inter, ma mi sembra anche che in questo momento Snyder sia l'Inter, sia anche l'unica risorsa di un Inter che non ha idee. Mi sembrava che avesse gamba, cioè. Sì. Detto questo, Gasperini penso che non andrà lontano, molto lontano. Ma è sempre stato, insomma, sarei sorpreso fosse il contrario, no? Perché lei ha ragione, da tifoso interista, che quindi dicevo prima conosce il respiro della sua creatura, sa bene che se il presidente non è convinto di una scelta la supporta finché può e poi fa dell'altro. In linea di massima è sempre stato così, con inutile fare l'elenco di tutti quelli che sono venuti prima. Se Moratti non è convinto e se è vero come diceva Andrea Sorrentino che l'ultima parola nella scelta dell'allenatore in tutto quello che succede all'Inter c'era lui, però se è un'ultima parola detta a mezza bocca perché non ci sono alternative, come è capitato quest'estate o come era capitato l'anno scorso quando non era convinto di Benitez e infatti in ogni situazione c'era lo spazio per il malumore, io credo che si stia ripetendo questa situazione. Poi è curioso notare, magari mi smentite, magari sono così, sono estremista, fissato io, l'anno scorso prende Benitez però non ti prende i giocatori, fai con quelli che hai perché c'è il fair play finanziario, e poi però arriva Leonardo mi piace un po' di più, Pazzini e Ranocchia va bene, te li puoi tenere. Leonardo è stato furbissimo nell'entrare morbido, no? nel fare quello che gestisce comunque l'eredità di Mourinho, ha capito com'era lo spogliatoio, ha capito almeno all'inizio quali erano le corde da toccare eccetera eccetera. Non è un grande allenatore, forse non è nemmeno un allenatore di calcio Leonardo, forse non sarà mai un allenatore anche perché ha scelto un'altra strada, però ha gestito la situazione con estrema intelligenza, mentre Benitez e Gasperini, da allenatori di calcio quali sono, hanno approcciato l'Inter in maniera molto più rigida. E se a questo si unisce la mancanza di fiducia di fondo che esiste da parte della società, da parte di Massimo Moratti nei confronti dell'allenatore del momento, ecco che i risultati sono abbastanza evidenti. In questa incertezza di fondo che ha l'Inter e che aveva l'Inter con Benitez. Poi tanto aggiorno su Manchester United Chelsea 3-1 perché ha accorciato Torres, poi Rooney ha sbagliato il rigore del 4-1. Dunque adesso voglio farvi sentire una cosa sempre per aspettare insieme Napoli-Milan di questa sera. Dopo questo montaggio, questo lavoro che sentirete di Franco Piantanida, vi leggerò le formazioni di Napoli Milan, ancora non ufficiali, ma quasi. La sapere che il mondo è divisa, ma Milan è un gran Milan. Attenzione, 3 contro 2, l'opportunità per il Napoli. Maggio, c'è Cavani libero. Maggio, Cavani, rete, Cavani. Sono impazziti 3.000 del Napoli. Il Napoli è in vantaggio. Mi permette prima una frase da letto napoletano. Ieri al gol del Mattador Cavani, o barcone mi sei scarrubata. O prima amore, o prima l'ultimo sarai con me. Parte la rincorsa di Seedorf, il pallone in aria, salta il colpo di testa, la rete! Thiago Silva ha pareggiato il Milan! Il miracolo è compiuto! Ha pareggiato il Milan! Siediti, Alberto, ho una buona e una cattiva notizia. Sono sospeso, vero? Peggio. Licenziato. Peggio ancora. Peggio di licenziato, cosa c'è? Trasferito. Al sud. Al sud, tipo Bologna? No, Bologna. Sud. Non mi dire Roma, sai che non amo Roma. No, non ti preoccupare, non a Roma, molto più a sud. Sicilia. No, prima della Sicilia c'è la Campania. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Nessuno credeva nel Napoli, abbiamo vinto contro una grandissima squadra che è il Milan. Ma io faccio i complimenti a due componenti del Napoli, sono la tifoseria, credo lo meriti, i giocatori, credo che lo meritano. Quindi siccome lui si era posto il problema domenica dopo la loro partita, io ho detto che a me andava bene se l'arbitro lo poteva scegliere lui. in questa vigilia di partita io non ho mai parlato né di Allegri né di altre cose. Probabilmente la polemica è dall'altra parte, si cerca la polemica dall'altra parte. Mazzarri non è di Livorno, lo dico ufficialmente, Mazzarri è nato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, e non voglio essere di Livorno. Milan, Milan, Milan, squadra grande, squadra mia. Noi siamo Napoli, sì. Secondo me è meraviglioso, manca solo la dichiarazione di Maradona prima di quella partita scudetto, non voglio, ce l'hai, dopo la sentiamo, non voglio vedere nemmeno una bandiera rossonera allo stadio domani, disse Maradona, e poi il Milan di Sacchi andrò a vincere e a strappare lo scudetto al Napoli. Formazioni, Napoli stasera con De Santis in porta, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, i tre dietro, Maggio, Inler, Gargano e Ossena centrocampo, Amsic, Cavani e Lavezzi. Giocherà El Pocho Lavezzi, magari claudicante, magari infiltrato, magari in cattive, non in perfette condizioni fisiche, ma ci sarà. Milan, Abbiate in porta, Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini. A centrocampo Van Bommel, Nocerino e Aquilani, quindi i due nuovi questa sera nella partita più importante di questo inizio stagione. Seedorf a fare il trequartista, davanti a lui ovviamente non ce ne sono altri, Pato e Cassano. A dopo. Quello che voglio dire alla gente è che stia tranquilla, che voglio un tifo incredibile domenica, che non voglio nessuna bandiera del Milan, non voglio assolutamente una, perché quando andiamo fuori di Napoli non siamo nessuno, veramente ci mancano i rispetti tutti quanti, per quello noi dobbiamo fare lo stesso con gli altri. Il messaggio suona quasi come una minaccia, si auguri che il Napoli vinca davvero, altrimenti fa la figura che ha sempre fatto, mi scrive Antonio, 349-238-6666. Abbiamo iniziato benissimo la finale europea contro la Serbia e come vi ho promesso prima Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. Tu mi insegni che prima di essere certi di aver battuto la Serbia devi vedere lì per terra che piangono. Bravo, bravo, bravissimo. Infatti sai, quando gioca l'Italia io un po' di scaramanzia me la tengo. Sì. Un primo set proprio bellissimo, però giocato benissimo dai nostri, un Mastrangelo che ha fatto sia a muro ma anche in battuta la differenza e l'ha fatta anche in questa fase del secondo set, quindi ha recuperato un piccolo gap. Un'Italia veramente super concentrata, diciamo che a cercare, sai, quella cosa per non gasarsi troppo, qualche errore di troppo della Serbia ha dato un piccolo aiuto ai nostri e quindi non aspettiamoci gli aiuti ma continuiamo a giocare come stiamo facendo e quindi bene, benissimo, assolutamente bravi. Poi mamma mia, tirano come delle bestie veramente tutti. Comunque Andrea, è un'Italia che ha fatto il percorso che bisogna fare in un torneo di questo tipo per avere ambizioni, c'è una squadra che è andata progressivamente crescendo e l'ha sottolineato Berruto ancora prima della semifinale. Sì, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, la cosa, come dire, rassicurante, per quanto si possa essere rassicurante nello sport, è che c'è un progetto riconoscibile, cioè un'Italia che parte, che fa una bella qualificazione alla World League, che stecca una partita, ma che riparte subito dopo con grande concentrazione, un bellissimo torneo amichevole, poi va avanti, avanti, avanti, e questa roba qui è quella che ti rende un po' tranquillo, perché è vero che può accadere tutto, ma se tu hai continuità dici, sai che noi ci siamo, cioè noi non gliela regaliamo in una partita, la devono vincere gli altri. I serbi fanno altrettanto, mica ce la regalano, però insomma siamo qua e rispetto ad altre volte abbiamo una grande concentrazione, mi pare un bel entusiasmo e anche questo mix straordinario tra Mastrangelo, che insomma è veramente la chioccia, e dei giovani che stanno giocando benissimo. Sì, è un gruppo che cresce, è un gruppo che ha convinzione più o meno come l'Inter, uguale, mi sembra proprio di vedere l'Inter. mi riporti sempre delle cose... No, ma questo anche per dire, fuori dallo scherzo, come la fiducia, questo percorso è qualcosa che ti dà fiducia, no? E quindi sei in grado di affrontare le difficoltà con questo bagaglio che ti sei portato dietro, meraviglioso. E il contrario, quando senti la sfiducia intorno e ogni pallone ti torna in faccia, questo è il discorso, non è aleatorio insomma nello sport. Poi oltretutto c'è una cosa molto importante ed è quella che la fiducia dipende da tantissimi settori diversi, dipende da quello che si fa in allenamento, dipende da come va in partita, da come sta il gruppo, da come stanno i giocatori, ma dipende moltissimo anche dalla solidità dell'ambiente generale. E in questo senso non dico cose nuove né così originali, l'Inter in qualche modo non è la squadra più tranquilla che dà maggiore fiducia a livello mondiale. No, questo no. L'Italia invece è sulla buona strada. 1-0 per noi, 9-8 per la Serbia nella seconda partita. Se non disturbiamo, ci sentiamo prima di chiudere il programma, Andrea. Ben volentieri, vi aspetto. Ci sentiamo dopo con Andrea Zozzi. Intanto vi do il polso di questa finale europea. Che non teniamo 40 puntos, 40 y algo puntos, objetivo es manutención. A ver si lo hacemos lo más rápido posible, porque si lo hacemos rápido, pues después podemos tener otro tipo de objetivos. Pero de momento 6 puntos y son pocos. Tenemos que continuar sumando puntos hasta que llega los puntos que nos dan la permanencia. E poi ditemi voi, mi dica lei, dottor Filippo Maria Ricci dalla Spagna per la Gazzetta e per noi, se non è un genio. Se non è un confronto di altissimo livello tra Guardiola che dice quest'anno sono sicuro che non vinciamo niente e Mourinho che risponde dobbiamo arrivare a 40 punti per salvarci. Però Guardiola ha detto volete un titolo? Ve lo do. Però l'aveva detto seriamente. E comunque la cosa più bella è che Mourinho sbaglia anche la parola, perché la prima parola che usa è manutenzione, che un po' si usa per gli ascensori, tipo non so, le macchine del caffè. Poi dopo si corregge e dice permanenza nella seconda occasione. Sì. Comunque la mia riflessione è la seguente. Ieri in Spagna sono state giocate 5 partite, 4-1-0 e 1-8-0. Questo cosa vuol dire? Insomma, no, c'è un campionato e poi ce n'è un altro. E tutta questa discussione sulla presunta crisi del Barça, così è finito già, più o meno. Siamo distratti per una settimana, mi sembra. Ma siamo sicuri che fosse mai cominciato? Cioè, nel senso che era quello che diceva Guardiola. No, allora, adesso voglio dire. Guardiola si è presentato in sala stampa piuttosto piccato, e ha anche ragione. Cioè, uno vince 12 titoli su 15 in 3 anni, fa 2 pareggi 2-2, un po' strani, voglio dire, no? E cominciano a criticare, sì, no, Busquets è lento, la difesa non va, dovevi prendere un altro difensore, insomma, aveva anche le sue ragioni a risentirsi. Sì, questo sì. Real Madrid però che si deve salvare, no? Che gioca alle 20 con il Levante in una insidiosa trasferta. Vabbè, l'anno scorso hanno pareggiato lì, però con quello che era l'allenatore del Getafe quest'anno, che infatti ha fatto anche bene. Adesso hanno cambiato allenatore, vediamo un po' come va. Partita scontro salvezza al Ciutat di Valencia, alle 8. Scontro salvezza appunto a Valencia alle 8, Levante contro Real Madrid. D'altra parte Real Madrid non so neanche se passa il turno in Champions League, l'altra sera solo 1-0 risicato, solo 1-0 risicato a Belgrado. Sì, esatto. Il Levante, posso dirti, da una difesa di giovani, tutti canterani, e il totale degli anni mi sembra sia 169 dei 5 difensori. Mi sembra invece in crisi, ma vera in questo caso, fuori dalle murignate, sì. Mi sembra in crisi vera il Villarreal. Sì, il Villarreal è un mezzo di sale. L'ho visto, sono andato a Villarreal per il Bayern mercoledì e già sono stati asfaltati. Bayern ha fatto una grandissima impressione. Ragazzi, ma il Bayern Monaco secondo me è sottovalutato. Nel sentire comune, secondo me è forse la favorita numero uno per la vittoria finale in Champions League. Manchester United, Real Madrid e Barcellona hanno le loro carte, però questa è, cioè Bayern ha sicuramente un grande valore. Tornando a Villarreal, pessimo, l'unico che gioca più o meno è Giuseppe Rossi. Non hanno più creatività perché hanno mandato via Casorla e hanno comprato De Guzman e Camugnas, che in due non riescono a fare neanche mezzo Casorla, e sono in difficoltà. Vediamo, adesso giocano col Mallorca martedì, però in generale non funziona molto bene per ora. Filippo, per chiudere ti chiedo un pronostico secco sullo scontro a salvezza. Levante Villarreal 1 per me. Sì, certo. Cioè, 1 più, diciamo, si può andare quasi in doppia cifra col gol che può fare il Real Madrid. Grazie Filippo. A voi un abbraccio. Buona serata a Filippo Maria Ricci. Allora, Italia 11, Serbia 14, siamo nel secondo set dopo che abbiamo portato a casa la prima partita. Daniele da Bologna, torno agli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. C'è chi scrive: ma che siete diventati Radio 24 Vesuvio? Siamo alla seconda, terza giornata, se il Napoli vince lo scudetto parlerete napoletano? Basta, scrive Moreno da Savona. Che poveri di spirito, perché non si può insomma sorridere un po' anche sulle scaramanzie, non si può guardare con curiosità quanto sta succedendo a Napoli, con grande curiosità guarderò la partita di stasera, e poi domani leggerò le notizie sull'osservatorio sismico di Napoli, sentiremo se ci sono state nuove scosse. Daniele, buongiorno, buonasera. Buongiorno, sono un tifoso del Bologna, preoccupato perché volevo dire, vabbè, qui c'è del rebritus, però io penso che Paraggi e l'altro centrale che abbiamo preso, Loria, recuperato, non facciano mezzo Morris, che poteva tenerlo tranquillamente. Sì, Bologna mi sembra pericolosamente in difficoltà, dico la verità. Oggi l'ho visto molto male con il Lecce. Secondo me il Lecce ha dominato con ampio merito questa partita e può essere un preludio di uno scontro salvezza. Cioè, questo vuol dire, se giochi in questa maniera e perdi in casa senza nulla da recriminare contro una squadra come il Lecce, vuol dire che il Bologna è pericolosamente in difficoltà, al di là dei nomi dei singoli. Questo è certamente vero, quindi preoccupazioni in un certo senso giustificate. Michele, provincia di Napoli. Direttamente da Napoli. Direttamente, neanche provincia. Bloccato in tangenziale da un traffico di cui non mi importa niente, perché sono tutti diretti a San Paolo. Io sto tentando di tornare a casa. Non va a San Paolo? No, non me ne importa assolutamente niente. Infatti niente. Il mio intervento riguarda un'altra cosa che ovviamente voi obnubilati vi siete dimenticati. Obnubilati? Cosa ci siamo dimenticati? La finale degli europei di pallacanestro. Dimenticati Francia, in che Spagna. Senso? Nel senso che si gioca stasera, mi pare, o no? Sì, l'ho detto prima. Ah, ok, allora ero io che non avevo ascoltato. No, volevo fare riflessione. Ma poi sul basket, Michele, obnubilati è tanto, perché penso che noi si sia l'unica radio italiana a dedicare un programma intero al basket. Faccio le mie scuse. Volevo fare solo una riflessione in parallelo tra la pallavolo e la pallacanestro. C'è una squadra come la pallavolo che adesso sta combattendo per il titolo mondiale, e invece un movimento di pallacanestro che non riesce a esprimere dei giovani in grado di combattere a livelli delle altre squadre, delle altre nazioni. Solo questo, quindi... Questo come mai, secondo lei? Come mai? Poi mi dica anche come mai, in un movimento che non riesce a esprimere nulla, abbiamo forse i tre giocatori più forti che siano mai stati in Italia, no? Facciamo Gallinari e Bargnani. Allora, Bargnani è un grande giocatore, ma non i giocatori americani il discorso sui giocatori italiani in NBA è lungo, sinceramente non mi va di affrontarlo sul valore singolo dei giocatori, non c'è nulla da dire sulla loro capacità di stare in una squadra e giocare di squadra, ci sarebbe molto da dire. Quello che voglio dire semplicemente è che il problema di una pochissima, scarsissima visibilità, di assolutamente nessun ritorno economico per la pallacanestro, che però comunque mi lascia perplesso, perché anche la pallavolo non credo che abbia quel ritorno economico così vantaggioso. Posso solo pensare che evidentemente ci sono dei dirigenti nel campo della pallavolo che sono più in grado di fare programmazione a lungo termine. Sì, però le chiedo ancora una cosa, ma secondo lei la situazione è così enormemente diversa rispetto al 2004, oggi? Questa è un'ottima domanda. Io credo di sì, perché è vero che abbiamo espresso tre giocatori di altissimo livello, però per dire un play come Pozzecco, un play come Pecile, figure del genere, non, ma anche per esempio giocatori tosti in campo come il figlio di Meneghin, non si sono stati più espressi, cioè tutti gli italiani che vanno in campo nel campionato di Lega 1 non sono a livello dei loro corrispettivi europei. Sì, però non, questo per dire che le formule e la contaminazione degli stranieri è identica rispetto al periodo storico in cui la pallacanestro italiana ha centrato il risultato più alto della sua storia, non un millennio fa, ma alle Olimpiadi di Atene del 2004, medaglia d'argento olimpica, sconfitta in finale con l'Argentina, lo ricordo per la cronaca. Dunque penso sia, quella era il canto del cigno probabilmente di Charlie Recalcati e di una nazionale, di un gruppo di giocatori. È stato perso un po' di tempo, anzi parecchio tempo, per avviare la ricostruzione. Penso che l'Italia possa, con Pianigiani e col lavoro che in fondo ha appena iniziato, andare su una strada diversa. Mi sembra semplicistico dire ci sono troppi stranieri, i nostri non vengono valorizzati. Io torno a ripetere, lo spazio bisogna meritarselo e conquistarselo sul campo e non averlo per legge o per decreto. Riuscite a fare previsioni per la Champions che è appena iniziata? Siete ridicoli, scrive un ascoltatore. Ma no, caro ascoltatore, non si tratta di essere ridicoli. Come ho confessato prima, ho capacità divinatorie che non vi ho mai rivelato. La verità è questa. Intanto 800240024 per chiamarci, anche se in zona Cesarini, oppure Facebook oppure Twitter per dialogare con continuità. Intanto la secondo set dell'Italia della pallavolo, siamo 21-17 per la Serbia dopo aver conquistato 25-17 il primo incontro. Naturalmente non riusciremo a darvi il finale di questa partita, ma sarà compito di Dario Ricci in serata e nei giornali radio. Domenico da Milano, Raimondo da Bologna, prossimi due ascoltatori. Domenico, buonasera. Buonasera gente, buonasera, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io volevo ritornare. Mi vuole insultare anche lei? Dopo che ho obnubilato, non me l'aveva mai detto nessuno. Assolutamente. No, ma io mi diverto, non c'è problema. No. Siamo tutti amici. Brevemente ritornare insieme a lei su quanto ha detto De Canio, che secondo me ha fatto una sintesi perfetta di quello che normalmente un allenatore che entra in una squadra e che va a gestire un capitale umano di un certo tipo dovrebbe fare. Praticamente Gasperini sta ripetendo l'errore che ha fatto Benitez, perché è arrivato e ha cercato di imporre il suo modulo. Sì, ma Domenico, l'errore l'ha fatto Benitez e l'ha fatto Gasperini o l'ha fatto chi lo ha scelto e che avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche di un allenatore che non è di primo pelo? Assolutamente sì, ma avrebbe dovuto farlo anche, l'ha fatto sicuramente anche Gasperini, che avrebbe dovuto, tra virgolette, concordare se l'Inter aveva bisogno di una rifondazione tecnica oppure partire da un certo patrimonio, dopodiché vedere se questo patrimonio era recuperabile o meno, dopodiché cambiare. Invece cambiare immediatamente non è funzionale al gioco di poter valutare, rivalutare il patrimonio, certo, che c'è. Ma il discorso è che secondo me serviva un allenatore conservativo, tra virgolette, come conservativo, un allenatore che non imponeva nulla sul piano tecnico e tattico come Leonardo, no? Quello era un allenatore di conservazione, in attesa di che cosa non si sa, perché il punto vero non è Gasperini piuttosto che Benitez, piuttosto che Ranieri, il discorso è qual è la strada per il futuro. È questo che, al di là del fair play finanziario che vale in certi casi, in altri no, è questo ciò che non si riesce a vedere guardando all'Inter. È una grandissima confusione, no? Se vogliamo anche divertente, perché interista non è come sottoscritto, però il fatto è che mancano le scelte di principio, non si capisce bene dove si voglia arrivare. Quindi è chiaro che se prendi un allenatore particolare, bravo ma particolare come Gasperini, non puoi prenderlo per dire vabbè vieni qui, scalda la panchina per un annetto che poi arriva Guardiola, che poi arriva Andrea Zorzi o Filippo Aureggi che è in regia. Si tratta di capire che cosa si vuole. Se si vuole una scelta di conservazione, Gasperini non è l'uomo giusto. Io personalmente la vedo un po' diversamente, nel senso che Gasperini doveva tranquillamente cercare di valutare, di rivalutare il patrimonio, dopodiché se queste premesse mancavano, ovviamente portare del nuovo, portare del suo, e a questo punto far coinvolgere la società. La società in due mesi non è riuscita nemmeno a fare una campagna acquisti congrua e in linea con le esigenze di Gasperini, e questo non perché sono bravi o non sono bravi, ma perché magari non ci sono state le opportunità. Quindi Gasperini forse è colpa mia. personalmente vorrei proprio comunque un tecnico preparato, sono sicuro che può uscire tranquillamente da questa situazione. È ovvio che farà molta difficoltà se vuole partire immediatamente col suo gioco, su questo ne sono abbastanza convinto. Sì, sì, no, ma anch'io, ma io penso che la permanenza di Gasperini sulla panchina dell'Inter sia a scadenza, ma per il discorso che si faceva prima, cioè di una mancanza di fondo, di fiducia di fondo, che è quella che fa tutta la differenza del mondo. Poi non, il resto secondo me sono discussioni tecnico-tattiche che hanno poco significato. Non c'è una fiducia totale e completa in Gasperini, di conseguenza non si imposta una squadra per il futuro, di conseguenza si tenta di conservare, ma giustamente, anche il patrimonio precedente, perché non puoi avere uno come Snyder, arriva Gasperini e ti dice no, questo qua non lo voglio più. Questa mi sembra follia, però a monte forse l'errore è stato quello di prendere un allenatore che sapevi che ti avrebbe fatto quella richiesta, quindi mi sembra un circolo abbastanza vizioso, ancorché divertente. Sa che abbiamo perso il secondo set, mannaggia Andrea. Sì, abbastanza nettamente anche, quindi veramente uno pari sia nei set ma anche nel modo in cui abbiamo vinto, con due squadre che hanno dominato, prima l'Italia, poi la Serbia, e noi l'abbiamo detto sapendolo un pochettino anche che la Serbia è una squadra che non molla mai. Abbiamo visto che Ivan Milkovic, che è l'alter ego di Mastrangelo, cioè quello esperto di là, ha un ruolo importante in questa squadra, e bravi, sanno giocare a pallavolo. Adesso un bel set, come sempre accade quando c'è un 1-1, il terzo set potrebbe essere quello decisivo. Ci attacchiamo alla scaramanzia? Dai. Facciamo così, guarda, 89, quando noi si vinse l'Europeo, si perse solo 3-2 con la Francia. Si fece una finale imprevedibile come Italia-Serbia, ma speriamo che sia un 3-1 per noi, dai. Grazie Andrea, ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato. Grazie, ciao Carlo. Ciao. Grazie ad Andrea Zorzi. Raimondo da Bologna, faccio giusto in tempo a salutarlo perché ancora un minuto. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ti ringrazio dell'opportunità, voglio solo scusarmi perché non parlerò di calcio, voglio solo, mi hai provocato prima su un'accezione che hai fatto sul basket, riguardo al fatto che l'anno che noi esprimiamo tre buoni giocatori di NBA, non ottimi, buoni giocatori, non vinciamo o facciamo una figuraccia ai mondiali o agli europei, quelli che sono stati. Basket è uno sport di squadra. Sì, ma no, c'è una ragione, sì, sai, noi abbiamo vinto gli europei, abbiamo fatto gli ottimi risultati con dei giocatori come Carrera, come Riva che sbombardava, come Brunamonti, ma erano giocatori che se c'era da buttarsi a prendere un pallone, tuffarsi e sgurarsi i garetti, sbucciarsi i gomiti, lo facevano. Sì, come l'hanno fatto i macedoni, che senza avere giocatori NBA ma con una superstar europea e un pugno di giocatori che paura non ne aveva neanche del diavolo, è arrivata al risultato più importante della sua storia. Questo perché la pallacanestro è uno sport di squadra, per costruire le squadre ci vuole pazienza, da quelle di basket a quelle di calcio, a quelle di pallavolo, a quelle di qualunque altro sport. Tanto dai primi d'ottobre comincia Palaspicchi ogni venerdì, e poi col campionato torneremo qui dalle 20.30 alle 21 per raccontarvi tutto, dunque vedete che tempo ne avremo. Questo tempo è scaduto. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Filippo Aureggi in regia. Domani alle 2 c'è Gigi Garanzini. Ciao a tutti.